Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. No, scusa, ma non è che ho sbagliato trasmissione? No, non, no, non no. Non sono le 18.30. No. Buongiorno, buongiorno Deborah, bentornata a Due di Denari, sono contento di vederti qui. Ecco, faccio la seconda domanda, non ma non dobbiamo San parlare Valentino. Di lavoro oggi? Dobbiamo parlare di lavoro, ma infatti ti volevo annunciare con questo ausilio musicale, sì. Un po' d'antane, devo ammettere, sono però tutta orecchie, ha sempre il suo fascino. Ma ho l'età per ricordarmi ho di questo brano. Ho trovato la mia professione futura, quindi vorrevo anche comunicarlo così in pubblico. Ho visto che sta diffondendosi questa nuova mansione importantissima nel cinema. Io spero che si diffonda rapidamente perché vorrei intraprendere la carriera al più presto. Dopo il musico vuoi fare, sì, anche il cinematografico? L'intimacy coordinator. E cosa farebbe questo L'intimacy personaggio? Coordinator è l'esperto di sesso, cioè quello che dice agli attori come, sì, devono adeguatamente interpretare la scena di sesso. Quindi mi immagino anche favorendo certi tipi di effusioni o invece evitandone certi altri per consigliare nel modo migliore e più adatto anche, bene, in tempi di Me Too gli attori. Guarda, ecco, l'ho letto sui giornali, non è mica una cosa. Ti ho portato anche due il domande. Ritaglio. Allora proseguirò nella mia intervista. Due domande: hai già presentato la tua candidatura da qualche parte? No, a qualche regista? Adesso però, siccome ho visto che c'è un'intervista a Mimmo Parisi dell'ANPAL oggi sul Sole 24 Ore, punto magari lavoro, c'è qualche navigator che ti aiuta a trovare il datore di lavoro esatto, adatto. Per fare l'intimacy coordinator. Avrei una seconda domanda: hai comunicato in famiglia questa tua velleità, questa tua aspirazione? No, però confido sul fatto che... Dopo averla comunicata a 2 milioni e rotti di 2 ascoltatori. 2.300.000 ascoltatori, vogliamo ringraziare gli ascoltatori. Tutti ad uno perché... ad uno, esatto, Maria, Francesco, Giovanni, Alessandra, in Alessandro. In rigoroso ordine esatto. alfabetico per cognome. No, devo dire, spero che la mia signora sia in questo momento, ecco, al lavoro e lontana da qualsiasi apparecchio radiofonico e dai social. Non vedo l'ora di vederti quando farai il casting, guarda, chissà sulla base di quali parametri valuteranno tutti i candidati per ricoprire questo ruolo. Vedo che comunque Marco Lombardo, per spegnere da subito i miei bollori, ha precisato nella scaletta: in Italia al momento registi, attori, sì, e produttori interpellati su cosa pensino di questo nuovo mestiere del intimacy coordinator, sì, si sono detti stupiti e ignari, ecco, e hanno sospeso il giudizio. Devo dire che mi sentirei di abbracciare, sì, questa posizione. Chissà se questo nuovo mercato in qualche maniera darà anche un pochino di sostegno ad un altro mercato, che è quello di cui parleremo questa mattina, quello immobiliare. Ah, certo, e abbiamo infatti ospiti di valore mondiale, sia in studio che da remoto, cioè, sì, dal telefono. Vuoi presentare già la Volentieri, signora? Però non parleremo esattamente di mercato immobiliare, ma in qualche maniera di tutte quelle professioni che lo sostengono, lo gestiscono, che sostengono le compravendite soprattutto, e quindi parleremo di agenti immobiliari, che oggi a me piace più definire consulenti immobiliari. Parleremo quindi dell'agente immobiliare 4.0, dove vogliono andare questi professionisti e soprattutto di che tipo di professionalità c'è bisogno in questo momento in cui il mercato sta riprendendo quota in Italia, ma non è che ancora faccia, come dire, fuochi d'artificio, per cui un mercato che sta selezionandosi sempre di più. E allora intanto ringraziamo di essere tornata in studio a trovarci Giulia Garbi, agente immobiliare, conduttrice TV, grande amica di Due di Denari. L'abbiamo strappata da Bardonecchia e tu non hai idea, farla venire qua significa che ci vuole molto bene. Perché immagino che forse a Bardonecchia, a meno che non ci fosse con lei qualche intimacy coordinator sì, degno di nota. Guarda che è sposata, ma probabilmente... pure lei. Da... No, ma cosa c'entra? No? Adesso guarda che ride. Si fa per ridere. Chiedo perdono della mia stupidità, dottoressa Garbi. Io volevo lanciare invece un sostegno. Chi più di te, esperto di fisco, può parlare di intimità? Cosa c'è di più intimo del fisco, che è una cosa così nascosta negli animi e nelle tasche, sì, degli italiani? Ecco, nascosta direi che è l'aggettivo giusto. Ma guardi, dottoressa, è la condizione effettivamente giusta, si è più reticenti sul fisco spesso e con il fisco anziché sul sesso. Quindi e quindi... Tu quindi è sei vero un esperto che di io potrei, potrei vantare una preparazione apposita. Nessuno avrebbe mai immaginato che la trasmissione di stamattina assumesse questa postura, questa declinazione. Non dire e postura qui... in questo tipo di cioè, magari tu dica posizione, chiedo, abbiamo fatto proprio lancio filotto. La chiedo l'ancora di salvataggio Giambattista Baccarini, presidente nazionale della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Ah, non c'è ancora, lo chiamiamo più tardi, ha ragione Marco, perché prima abbiamo tutti gli altri adempimenti, che Dio ci salvi da questa puntata, a cominciare dal giornale radio del risparmio. Drin drin, edicola risparmio. Mare, profumo di mare, con l'amore io questa qui è stata messa per continuità con quella coerenza, di prima, no? Ovvio. Per far capire che non era solo una così un'avventura fugace, ma non c'era sarà anche un'avventura, non l'abbiamo messa di Battisti? Non lo so se più avanti in scaletta è stata prevista. No, allora, abbiamo preso Love Boat perché, dillo tu Deborah. Perché ci sarebbero 700 nuove opportunità di lavoro a bordo delle navi di Costa Crociera. Allora, le selezioni previste durante tutto il 2020 avverranno attraverso due modalità. Ieri ci hanno gentilmente chiesto di far veicolare questa notizia perché tutte le professioni che viaggiano a bordo appunto di queste navi sono in questo momento proprio in piena fase di selezione e reclutamento, e quindi c'è il Recruiting Day, che è un'iniziativa appunto proprio portata avanti dalla Costa Crociere, che sta cercando di assumere e quindi sta cercando appunto anche di far sapere in tutta Italia che partiranno a breve le selezioni. Allora, c'è peraltro anche un percorso di formazione finalizzato all'assunzione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e totalmente gratuito per tutti i candidati. Allora, volevo la prima tappa del Recruiting Day in collaborazione con Monster, che è una grande agenzia del lavoro, una delle principali piattaforme per la ricerca di lavoro in Italia, è prevista sabato 29 febbraio a Savona, a bordo di Costa Smeralda. Sarà un'intera giornata dedicata alla selezione di 72 figure professionali dell'ospitalità che hanno già maturato esperienza in vari settori, 10 responsabili dell'accoglienza, e poi ci sono addetti alle escursioni, animatori, animatori per bambini, fotografi, pasticceri, anche casari, quindi chi prepara formaggi freschi per tutti gli avventori di queste crociere. Quindi se volete candidarvi per fare dei bei viaggi con Costa Crociere appunto, e soprattutto lavorare a bordo di queste strepitose imbarcazioni, potete andare a cercare tutti i requisiti necessari a cui è necessario rispondere appunto sulla piattaforma di Monster, candidarvi e andare a fare la selezione. Quindi magari vi auguriamo tutto il bene possibile e portare a casa una nuova occupazione. Twitteremo, cioè metteremo su nel Twitter anche prestissimo il riferimento di internet per raggiungere questo tipo di offerta. Un'altra offerta che è disponibile su internet e riprende un po' anche lo scherzo che si faceva prima con Giulia Garbi è appunto domani l'appuntamento con Telefisco, www.ilsole24ore.com/, cioè la sbarretta Telefisco. Perché? Perché è ancora possibile acquistare in streaming la visione della manifestazione, che come sapete è una manifestazione, un convegno di esperti del Sole 24 Ore, che per tutta la giornata e insieme all'Agenzia delle Entrate, proprio anche in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, illustrano le novità fiscali del 2020. Domani dalle ore 9, qui dalla sede centrale del Sole 24 Ore, poi irradiato in 173 sedi al momento, potrebbero ancora crescere in tutta Italia e su streaming. Visto che oggi parliamo di lavoro, volevamo segnalarvi anche un'altra intervista che appare oggi sulle pagine del Sole 24 Ore, rilasciata a Giorgio Pogliotti da parte del presidente di ANPAL Servizi, che è Domenico Parisi. ANPAL è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in questo momento è il crocevia dell'attivazione dei navigator, sostanzialmente tutte quelle figure professionali, come ricorderete, che devono farsi carico di reperire in qualche maniera un'occupazione, di ricollocare nel mercato del lavoro tutti i percettori di reddito di cittadinanza. Cosa dice Parisi a Pogliotti? Parisi parla delle gravi carenze della rete informatica, annuncia che presto potrà essere lanciato un nuovo sistema operativo, magari entro l'estate, proprio per incrociare a livello nazionale in modo automatico domanda e offerta di un'impresa impiego in base al proprio profilo. Parisi ha sottolineato anche nell'intervista che il valore del reddito di cittadinanza come strumento per gestire le transizioni tra un'occupazione ed un'altra. Magari sarà il caso di richiamarlo anche a Due di Denari presto per raccontarci tutto ciò. E qui vorrei scomodare per quest'altra notizia che sta sul Sole 24 Ore di oggi, sempre nelle pagine Punto Lavoro, il grande, grandissimo, gigantesco Kobe Bryant. Perché lui diceva: ma se non sei tu il primo a credere in te stesso, chi vuoi che ci creda? Chi ci crederà? Ecco, perché lo dico? Perché da una indagine che è stata fatta su un migliaio di giovani tra i 18 e i 29 anni è emerso che vanno al primo colloquio di lavoro ansiosi e poco preparati, e anche con una rassegnazione che colpirebbe, secondo questa indagine, un giovane su tre al primo colloquio di lavoro, cioè una rassegnazione per cui uno già va nella convinzione che la cosa andrà male. E allora per quello ho scomodato il grande cestista americano, come sapete, tragicamente scomparso proprio due giorni fa. Dai primi risultati di questo studio, su questo campione di giovani, è emerso che una nuova sfida lavorativa genera ansia per il 73% dei giovani, e questo mi sembra una cosa assolutamente naturale, genera confusione, cioè si sentono confusi nel 68%, e il 43% si dichiarano in preda alla solitudine, un aspetto emotivo quindi che risulta anche poi nuocere a quella che può essere la preparazione puntuale per quel lavoro. Chissà con che stato d'animo si presentano i candidati agenti immobiliari quando, così un po' convinti dal voler fare questa trasmissione, chiaramente bussano alle porte dei magari maggiori network del settore, delle maggiori agenzie, nel tentativo appunto di candidarsi ad iniziare ad un percorso professionale di questo tipo. Ne parleremo tra poco, per cui se avete delle domande su questo argomento, professione agente immobiliare, ci state facendo un pensierino, lavorate già in questo mondo, come lo state vedendo cambiare, raccontatecelo all'800 24 00 24 oppure al 349 238 6666 per i vostri messaggi, su WhatsApp. Prima di partire però il consueto sportello reclami di Radio 24 di Due di Denari, sentiamo un po' che cosa ci chiedono oggi. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, sono Tommaso, volevo parlare del bollo auto. Avendo visto sulla rete che con il pago PA era possibile poter pagare i bolli, mi sono accinto a farlo, e alla fine del percorso mi sono accorto che questo pagamento comunque non è un pagamento gratuito come sembrava dalla pubblicità del pago PA, ma è un pagamento che andava da un importo di 1,50 euro a bollo presso le poste fino a 2 euro, 2,50, 2,75 presso altri soggetti abilitati al servizio. Nessuna iniziativa viene presa per agevolare il cittadino, il quale non è ancora cittadino ma è ancora suddito. Vi ringrazio e saluto cordialmente sia Deborah Rosciani che Mauro Meazza. Dov'è il nuovo lavoro? Allora, eccoci qua, dov'è il nuovo lavoro? In un settore molto tradizionale per il nostro paese, che è il mercato immobiliare, le compravendite di case e di immobili, chiaramente un mercato sempre piuttosto vivace in Italia, perché sappiamo che l'italiano medio è un grande affezionato al mattone, sia come prima casa sia anche come tema di investimento, però insomma negli ultimi anni questo mercato ha vissuto delle fasi alterne, e con esso anche le persone incaricate in qualche maniera di intermediarlo, di gestirlo. Che infatti si trovano, immaginiamo, anche in un difficile crocevia, dato da una disponibilità di immobili tutto sommato in aumento, perché sai, cara Deborah, ci sono meno eredi che immobili, ci sono più meno eredi che immobili, quindi c'è una quantità di immobili a disposizione molto ampia. E dall'altra parte però c'è anche stata la terribile crisi del 2008 che ha trascinato in basso, esatto, le quotazioni in molta parte d'Italia. Qualche area, lo scriviamo, ce ne occupiamo anche qui a Radio 24 tutti i giorni, qualche area si è un po' ripresa, non così si può dire dell'intero paese. E allora, prima abbiamo presentato Giulia Garbi, agente immobiliare, conduttrice TV qui con noi in studio, ora abbiamo collegato al telefono il presidente nazionale della FIAIP, cioè la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Gianbattista Baccarini. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a voi e buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Allora, Deborah, da dove vuoi cominciare? Cominciamo un po', non per essere sgarbata, con Giulia, che è un'amica. Vorrei cominciare un po' con come dire, l'organizzazione, l'istituzione, per capire intanto come state in questo momento attrezzando i vostri associati a gestire questa particolare fase che il mercato immobiliare vive. Molto in fermento in grandi città italiane, raccontiamo costantemente della fase veramente magica che vive per esempio la città di Milano, ma è una situazione molto distante rispetto a tanti altri centri del nostro paese dove da anni il mercato è assolutamente fermo. Fra questi due estremi ovviamente c'è poi tutto l'intermedio che continua a muoversi, ma naturalmente è oggetto, questo mercato intermedio, di fasi di trattative molto lunghe tra compratori e venditori. E naturalmente è necessario da parte vostra spiegare una professionalità sempre maggiore per gestire questa fase così complicata. Allora, come ce lo racconterebbe oggi questo agente immobiliare? Noi l'abbiamo ribattezzato il 4.0, ma è davvero così? Che cosa significa per voi avere questa identità in questo momento, Baccarini? Sì, l'agente immobiliare 4.0, agente immobiliare professionale evoluto, moderno. Noi abbiamo intrapreso un percorso di digitalizzazione e innovazione tecnologica perché, come sappiamo, una volta si andava dal mediatore, veniva chiamato, diciamo tecnicamente più così, per l'informazione. Oggi l'informazione è pubblica, cioè tutti noi utilizziamo i social, utilizziamo i canali digitali e andiamo nei vari portali per, diciamo, se vogliamo comprare o vendere l'immobile, troviamo l'informazione. E quindi la tecnologia sicuramente può e deve essere uno strumento al servizio dell'agente immobiliare professionale, però poi perché il cittadino, una volta che raccoglie l'informazione, diciamo, dal web, dovrebbe investire, a me piace parlare così, investire del denaro in un agente immobiliare, chiamiamolo fisico, professionale? Ecco, secondo noi per tre ragioni. Uno, per il prezzo, perché comunque le richieste che uno individua nel web spesso e volentieri non sono allineate a quelle che sono il vero e reale valore di mercato dell'immobile, e l'agente immobiliare professionale conosce i valori di mercato perché solo chi vende quotidianamente, chi aiuta a intermediare le persone, quindi a raggiungere quello che è per molti un sogno, no? Quello di trovare la casa della vita, sicuramente conosce i valori di mercato. Il secondo motivo è l'accordo, cioè riuscire a trovare il giusto accordo tra due contraenti che, io dico, spesso è una piccola guerra, tra virgolette. Uno vuole realizzare il più possibile, l'altro vuole spendere il meno possibile, e quindi riuscire a trovare la giusta misura attraverso, diciamo, capacità empatiche, relazionali, di comunicazione, riuscire a dire la parola giusta al momento giusto, la capacità di ascolto che un agente immobiliare ha, è un buon motivo per rivolgersi all'agente immobiliare professionale. Il terzo motivo è la sicurezza e serenità. Cioè è rischioso, noi sappiamo comprare casa perché comunque un momento, ripetiamo, difficile, e farlo online, i dati ci dicono che non è sicuro, è molto rischioso, anno su anno aumentano del 150% le truffe online, e quindi affidarsi a una figura che riesce attraverso una modalità che la nostra federazione poi ha ideato e ha denominato una FIAIP, ovvero attraverso un controllo preventivo di tutta la documentazione relativa all'immobile, parlo della documentazione riguardante l'atto di provenienza, quindi chi è che vende e se ha pesi, gravami, ipoteche, privilegi, pignoramenti, atti d'obbligo, patti speciali, se la situazione urbanistica ed edilizia è in regola, la parte catastale, l'impiantistica, la parte condominiale, insomma tutto un check-up documentale che viene effettuato in parte direttamente dall'agente immobiliare e in buona parte esternalizzata a professionisti convenzionati, perché giustamente ognuno ha il proprio lavoro. Ecco, questo è un ottimo motivo, un validissimo motivo per investire del denaro, ripeto, in uno dei momenti più delicati della vita, certo, di uno di noi. Lei tra l'altro ha utilizzato molto il termine operazione rischiosa, il concetto di operazione rischiosa, aggiungo anche emotivamente complicata per le due parti in causa, perché chi compra spesso lo fa contraendo un mutuo, quindi si indebita per un sacco di anni e quindi aggiunge emotività ovviamente e sentimento a questa operazione. Chi vende magari lo fa dovendo abbattere un po' il prezzo che ha in testa, quindi è in difficoltà emotiva anche da questo punto di vista, magari deve liberarsi un immobile da dove è stato, dove ha abitato per un sacco di tempo, per cui c'è anche tutto un tema, come dire, sentimentale legato a queste operazioni che spesso offusca un pochino anche, no, la visione delle parti in causa. Su questi aspetti so che Giulia Garbi è molto concentrata perché ha, adesso non è per dirlo perché è un'amica nostra, ma una grandissima cura di questi valori che circondano anche il procedimento di compravendita. e che Baccarini ha ben accennato tra le righe. Cioè, lui intanto ha parlato di valore reale e io dico qual è il rischio reale, perché non possiamo definire il mercato italiano come un unico mercato immobiliare. È un mercato fatto di tantissime pluralità, unicità come Milano, che sono espresse fra l'altro da nessun'altra città, e quindi a fronte di un nuovo fenomeno di urbanesimo abbiamo un fenomeno di spaventoso spopolamento. Quindi oggi il rischio immobiliare, quindi la consulenza che secondo me è chiamato a fare un agente immobiliare rispetto al suo cliente, è il dove comprare. Perché il rischio immobiliare non è intanto nel termine di dire pago questa casa il 10% in meno e di più perché magari è proprio la mia preferita e quindi sono disposta a comprarmela, è la mia casa del cuore, ma è capire quale futuro avrà il contesto di luogo, che può essere anche semplicemente il quartiere se parliamo di una città, oppure in modo più ampio il borgo, il paese o la cittadina di provincia dove io mi sto accingendo a rendere i miei soldi a forma di mattone, come per partire esatto. Dall'inizio. Io ho una considerazione più generale. Chiedo scusa, ho una considerazione più generale che rivolgo a entrambi, cioè sia a Giambattista Baccarini che a Giulia Garbi. Nell'era della disintermediazione, che è questa parolona per dire che con internet e con i social, insomma, siamo tutti diventati più abili a fare per conto nostro, siamo tutti diventati più esperti del fai da te, voi invece state entrambi mettendo l'accento sul ruolo essenziale di avere una persona terza che in qualche modo si occupi della trattativa immobiliare, segnalando giustamente è uno di quei passi decisivi per la vita, perché abitualmente la maggior parte di noi non compra e vende case continuamente, quindi ne sa poco, a volte anche proprio in difetto di conoscenze, e quindi dite meglio non disintermediare in questo caso. Ma Baccarini, la professione in sé è pronta per sostenere questa cosa, cioè per reggere l'urto, per così dire, delle nuove tecnologie? Lo deve essere, altrimenti appunto parliamo di comuni cittadini, chi è che di noi vorrebbe buttare via, uso un termine un po' brutale, dei denari senza percepirne un'utilità reale, concreta, e l'utilità sta proprio nel fatto di avere dinanzi a sé una persona, come diceva Giulia Garbi, che ti ascolta, che capisce quello che effettivamente è il tuo reale e concreto bisogno. Ma oltre a questo, che è una capacità, io lo chiamo un'arte, un talento che chi intermedia ha, perché altrimenti non potrebbe fare questo lavoro, e spesso ci si sottovaluta e lo si dà per scontato, ma unitamente a un servizio concreto, che significa dare sicurezza non attraverso il saper ben parlare o avere una buona, diciamo, capacità comunicativa, ma attraverso appunto una raccolta documentale, un controllo documentale, anche e soprattutto attraverso canali digitali. Noi abbiamo istituito una piattaforma, questa piattaforma si chiama Una Fiat, è una piattaforma digitale che consente con un click, come su Amazon, di acquistare, di comprare, diciamo, tutto l'aspetto documentale, quindi le misure catastali, le planimetrie, la relazione tecnica integrata, farlo in costi contenuti, in tempi definiti e soprattutto in maniera molto semplice, perché poi appunto è un passaggio, un cambiamento dell'agente immobiliare che appunto non tutti, no, stanno a utilizzare con grande diciamo semplicità e velocità i canali digitali, e quindi questo è un passaggio che aiuterà sicuramente a stare sul mercato e anzi a divenire figura sempre più centrale, perché io dico sempre le macchine, cioè la tecnologia, ma questo non lo dico solo io, lo dice l'Università di Harvard, sanno dare risposte molto meglio di noi esseri umani. Si parla del 90% di risposte certe rispetto a un essere umano, si parlava di avvocati e quindi di quesiti legali, e i migliori avvocati di Harvard riescono a dare risposte giuste per il 70%, mentre Watson, che è l'intelligenza artificiale di IBM, per il 90%. Però le macchine non riescono a fare domande e soprattutto non riescono a interpretare le risposte, quindi la parte emozionale, la capacità che dicevamo prima empatica, che solo le soft skills, cioè le competenze relazionali uniche dell'essere umano, riescono a offrire. Grazie, ci fermiamo un attimo. Giulia, ti chiedo un minuto di pazienza perché adesso è il momento in cui abitualmente Deborah ci informa fa vedere su... le sue collane nuove. Ah certo, chi... potete ammirarla sulla esatto. nostra pagina Facebook e anche su tutti i canali video. Non farei mica solamente tu il... No, no, l'intima si coordinetto. Anche io voglio esprimere oggi tutto il mio charme. Scusa. Allora, mandiamo insieme un curriculum per fare l'intima si coordinetto, però nel frattempo, cara Deborah, non abbandonare il tuo attuale lavoro. Informaci sulle borse. Lasciamo perdere, va là, che siete entrati in un campo minato che è meglio evitare. Di denari. Qual è il valore aggiunto che un agente immobiliare oggi dà ad uno che deve affittare una casa? Nessuno, perché mettendo un semplicissimo annuncio su internet si ha lo stesso effetto a costo zero, quindi sinceramente il 4.0 io non lo vedo, nemmeno l'1.0 vedo. Gli agenti immobiliari oggi servono a chi non ha voglia di mettere un annuncio su internet per affittare una casa. Io affitto casa tutti gli anni e non ho mai speso un centesimo per un agente immobiliare. Sì, buongiorno, potrei essere richiamato da un agente immobiliare per un'informazione importante, se è possibile, grazie. Allora, vabbè, il secondo lo richiameremo, ci scriva una mail, abbia pazienza, @radio24.it. Sul primo ascoltatore la Giulia carica pallettoni, te lo sì. dico. No, io sono perplesso invece perché capisco dal messaggio dell'ascoltatore che è un affitto che lui fa periodicamente, quindi dovrebbero essere affitti brevi, magari in una località turistica. E allora forse le esigenze sono un po' diverse, cioè lì magari può bastare per trovare un inquilino così affidabile. E mentre... poi è senza rischio perché viene il canone d'affitto viene pagato in anticipo. Esattamente, mentre direi complessivamente il fatto dell'aiuto nella selezione dell'inquilino può sembrare una cosa brutta, ma non mi sembra così da sottovalutare. Giulia Garbi. Non lo è per niente, perché soprattutto negli affitti, diciamo i 4+4, perché ancora non c'è stata tanta innovazione rispetto sulla normativa per le locazioni, quindi siamo ancora, bene o male, per l'abitazione. Al contratto 4+4 è molto importante selezionare l'inquilino, quindi il modo come vive, in quanti sono, le esigenze, il tipo di affidabilità nel coprire i canoni degli anni futuri, quindi è molto importante e questo lo fa un agente immobiliare. Rispetto al 4.0, ora lui questo signore ci ha messo al tempo della macchina, prima della macchina a vapore, il 4.0, il World Economic Forum di Davos ha individuato in due soft skill fondamentali nei prossimi anni. Una è il problem solving e l'altra è la creatività. E quindi è proprio sul problem solving che l'agente immobiliare può fare la differenza. Dall'affitto all'accordo di cui faceva prima cenno Baccarini, quindi a quella competenza che sta in mezzo e che cerca proprio di mediare e soprattutto di avere le informazioni giuste, non solo darle. E mi rivolgo all'affitto. Non sempre è facile in una trattativa diretta sapere la verità dell'altro. Invece l'agente immobiliare può riuscire con tecniche spesso innate a capire quali sono le informazioni su cui poi prendere la decisione di a chi dare la casa, piuttosto che a quale prezzo effettivamente si potrà concludere l'affare e tutto quello che ci sta nel mezzo, comprese le informazioni tecniche, che però tutto sommato sono le più facili. Quindi il problem solving è la vera qualità 4.0 degli agenti immobiliari. E mentre noi parliamo appunto di questa tendenza a rendere sempre più moderne al passo con i tempi questa professione, molti ascoltatori continuano a contestare aspetti vecchi e che rendono invece questo ruolo un po' discutibile nella trattativa. Il costo dell'intermediazione viene ancora giudicato molto alto perché si viaggia su percentuali che vanno dal 4 al 5% sul valore della trattativa e della compravendita. Io lo so che non esiste uno standard e che anche la percentuale può essere oggetto di comunque trattativa, perché se si porta a casa un'operazione importante è chiaro che questa complessivamente si può ridurre, sono aspetti sui quali si può sempre negoziare. immobiliare, immagino, ma adesso lo chiediamo agli esperti. E poi c'è tanta parte degli ascoltatori che continuano a sollevare l'aspetto della qualità degli immobili, che pur non essendo a posto, come dire, secondo le regole urbanistiche, catastali e quant'altro, gli agenti immobiliari continuano a proporre, a mettere sul mercato, e quindi riescono anche poi a portare a casa delle compravendite su immobili non regolari. Allora, Baccarini, quindi agente 4.0 sicuramente, ma problemi vecchissimi che non trovano facile soluzione. Sì, assolutamente sì. Mi piaceva tornare velocissimamente sul signore che ha parlato all'inizio. Ma innanzitutto a me piace dare anche dei dati, cioè l'84% di compravenduto tra privati avviene a un valore non congruo tra un 14 e un 18%, di cui il 52% in alto e il 48% in basso. Cioè, in buona sostanza, quando uno compra o vende da soli, o sta strapagando l'immobile di 10, 15, 20 mila euro in più, lo sta svendendo per la stessa cifra. Quindi deve avere un pochino di fortuna, se non ha una figura che intermedia a livello professionale, che conosce i valori di mercato, e quindi forse, è un po' ironico ovviamente quello che dico, è meglio investire 5, 6, 7, 8 mila euro in un agente immobiliare e risparmiarsene 10, 15 in una transazione tra privati. E poi c'è il tema, è vero, il 70% degli immobili in Italia hanno difformità, presentano difformità documentali o a livello catastale o edilizio urbanistico. Questo è un grande tema che riguarda anche la politica, la pubblica amministrazione e quant'altro. Però quello che diciamo noi, e quando dico noi non dico FIAIP solo, l'intera categoria di chi intermedia, proprio uno di quei tre motivi per cui investire denaro in un agente immobiliare è proprio quello che l'agente immobiliare, che per legge è obbligato a dare le informazioni a lui note, ma oggi con la giurisprudenza anche quelle conoscibili con la diligenza media del professionista, e quindi tutto ciò che è pubblico. Pertanto l'agente immobiliare oggi si adopera, e gli strumenti, e da qui il ruolo della federazione che deve fornire gli strumenti per farlo, per raccogliere tutte quelle informazioni di cui accennava anche lei, quindi di carattere edilizio urbanistico, catastale, di impiantistica, condominiale e quant'altro, perché l'immobile, l'importante è avere contezza di ciò che si sta promuovendo sul mercato. Quindi fare questo controllo preventivo, e non è detto che l'immobile sia regolare, attenzione, l'importante è che l'immobile sia verificato e si sappia esattamente cosa non è regolare, costi e tempi per sanarli, perché poi per transare ci vuole il notaio. Quindi se avvengono queste transazioni, c'è un pubblico ufficiale che consente la trasferibilità dell'immobile, ed evidentemente anche degli immobili che non siano perfettamente lineari o regolari si possono vendere. Dipende dalle regolarità. L'importante è che i contraenti siano diciamo in piena contesta, certo, e consapevolezza, conoscenza e coscienza di ciò che stanno vendendo o comprando. C'è Lorenzo che ci ha chiamato la provincia di Vicenza proprio un po' insistendo su questo tema della regolarità, cioè il fatto che l'immobile sia o non sia privo di vizi, che di solito i notai so che usano questa formulazione. Questo Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci chieda, infatti, Lorenzo. Sì, mi collego proprio a quanto detto dal professionista. Ecco, professionisti sono, vero? Allora, se purtroppo appena un mese dalla compravendita e dal pagamento della provvigione emerge che dopo denuncia del vicino di casa il comune si sveglia dopo mesi e vede, insomma, si capisce che una parte dell'immobile all'esterno addirittura è abusivo. Allora, quando acquisti, no, tu vedi solo la casa dei tuoi sogni, perché se poi ti occupi di pelletteria professionalmente non vedi altro. Invece il geometra agente immobiliare, secondo me, non poteva non vedere che quella parte lì del portico, insomma, doveva, aveva dei vizi. Sì. Però voglio capire questo. Veramente l'agenzia immobiliare se ne lava le mani dicendo che tu non gli avevi espressamente richiesto che loro verificassero il catastro? Cioè, lei vuole, lei ci chiede, ma c'è una responsabilità? Lo chiede, giriamo la domanda immediatamente, guardi, a Baccarini. Risponde l'agenzia di questo tipo di comportamenti, di questo tipo di, allora, anche di eventi? Dunque, oramai al di là di quello che dice il codice civile e la legge, c'è una giurisprudenza consolidata su una responsabilità del mediatore, sul fatto che, come dicevo prima, che deve fornire, raccogliere, quindi poi fornire ai contraenti tutte le informazioni conoscibili, non solo quelle note. Quindi poi ovviamente bisogna guardare il caso per caso, perché ovviamente questo è in linea generale. Pertanto l'agente immobiliare ha tra i suoi obblighi quello appunto di raccogliere la documentazione, quando dicevo prima della metodologia, anche e soprattutto attraverso professionisti convenzionati, perché noi non siamo dei vigili urbani, non ne abbiamo nemmeno la competenza, ma per esempio affidarsi e collaborare con un tecnico che effettui la relazione tecnica integrata è nella metodologia una FIAB che la nostra federazione ha ideato ed è stata anche pubblicata presso l'UNI, che è l'ente normazione italiano, costituendo una prassi di riferimento. Ecco, questa prassi prevede questo, che ci sia, attraverso la collaborazione con professionisti tipo il geometra, che possa verificare l'aspetto di edilizia urbanistica e catastale, di modo che se ne tenga conto anche e soprattutto prima nella valutazione di mercato, perché fa presto anche il fatto che un immobile abbia o non abbia dei difetti o delle irregolarità e abbia dei costi per sanarli. Quindi assolutamente l'agente immobiliare oggi ha delle responsabilità, ovviamente vanno poi, come dire, caso per caso, certo, andranno identificate caso per caso, però lei dice abbiamo un protocollo preciso da seguire. Anche noi abbiamo un protocollo preciso da seguire, sì, cara Deborah. Sì. È il 45esimo, l'arbitro fischia il traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna il momento poetico. Partecipa anche tu inviandoci il tuo componimento a duedidenari@radio24.it. I versi dovranno trattare i nostri temi: investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. E l'ultima parola dovrà sempre essere traffico. Hai preso carta e penna? Ti aspettiamo. La finanza è poesia. Due di Denari. Potreste segnalarmi dei siti stranieri dove poter mettere il mio immobile in vendita? Vi ringrazio, perché sinceramente non ne conosco neanche uno. Grazie. Cara Giulia, che tu anche oltralpe vai spesso e magari qualche richiesta del genere te la sei sentita fare, insomma, per gli interessati a vendere la propria abitazione in Italia ad un mercato fuori dall'Italia, che suggerimenti daresti a questa signora? Intanto di usare tranquillamente i portali italiani, perché ormai gli stranieri che comprano in Italia non gli viene in mente solo dalla Svezia o da Londra, loro conoscono molto bene il nostro mercato e anche i portali. E negli ultimi anni sono molto aumentati gli acquirenti stranieri, abbiamo superato il 20% nelle compravendite fatte da loro, e quindi direi sicuramente i portali stranieri. Ce n'è uno però che si chiama Gateway, che è usato sia da agenti immobiliari che da privati, e può essere un consiglio complementare rispetto, ripeto, ai portali italiani. Io invece ho un'altra curiosità, Deborah, ma per il presidente Baccarini soprattutto, ma per fare l'agente immobiliare, perché qualche volta, diciamo, uno pensa, vabbè, il diploma l'ho preso, semplicemente un giovane, ma chissà, potrei anche mettermi a fare un pochino il mediatore per l'acquisto e l'affitto di appartamenti. Mi pare un approccio forse poco adeguato ai tempi, ma magari è ancora così, c'è spazio, c'è lavoro in questo settore, c'è da fare. Ma io penso sempre che la qualità del servizio erogato consenta a tutti di poter fare qualunque tipo di attività. Ovviamente è fondamentale avere le competenze per farlo. Per entrare, per fare l'agente immobiliare, bisogna presentare una scheda alla Camera di Commercio di competenza, dove si autocertifica determinate cose e si portano delle certificazioni che attestano dei requisiti che sono morali, generali e tecnico-professionali. Generali sono la maggiorità e essere italiani o vivere nella comunità europea o se extracomunitario, permesso di soggiorno. Morale, avere la fedina penale pulita sostanzialmente, e tecnico professionale, avere il diploma sì di scuola secondaria superiore, ma aver frequentato anche un corso che varia da regione a regione dalle 80 alle 220 ore, e un esame da effettuare presso la singola camera di commercio, e poi aprire la partita IVA e soprattutto avere la polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. Mm-hmm. Detto questo, che sono i requisiti per entrare a fare questo tipo di attività, ci sono le soft skill, poi tra l'altro, che queste verranno, esatto, le cosiddette competenze un pochino trasversali. Beh, Baccarini è un grande sostenitore della formazione, vero? Assolutamente sì, noi con quella prassi di cui accennavo prima, la PDR 40 pubblicata all'UNI, non solo si stabiliscono le abilità, competenze e conoscenze dell'agente immobiliare professionale, tra l'altro sulla scia di una normativa europea, ma anche le linee guida della formazione obbligatoria continua, e noi stiamo lavorando a livello istituzionale con la consulta proprio per istituire i crediti formativi come hanno le attività professionali, perché la nostra non è tanto un'attività di vendita di prodotto, come si diceva prima, un'attività consulenziale più vicina all'attività professionale, insomma, che non... Diciamo che lo deve diventare questo, poniamocelo, siamo un po' realisti, Baccarini, noi sì, oggi siamo ancora noi. Tanto mediatori. Quello è vero, dipende tanto da noi e da chi opera sul campo, e penso che il ruolo, il dovere, io dico l'onore, ma anche l'onere delle... Abbiamo perduto Baccarini, stamattina ci stanno censurando in qualche maniera il telefono. Ne approfitto per dire che alcune regioni, tra le quali l'Emilia Romagna, hanno istituito obbligatoriamente una perizia tecnica necessaria per arrivare all'atto di rogito, e quindi questo a tutela di quel cliente di prima che mi sembrava avesse un accento veneto, e quindi si può fare anche volontariamente, magari l'acquirente che non è così certo delle informazioni che gli sta dando l'agenzia immobiliare può rivolgersi a un geometra e farsi fare una perizia su quella che è la storia urbanistica, le regolarità catastali e tutto quanto serve per... Tutto quanto serve per conoscere il territorio, perché da lì poi ogni trattativa che si possa risolvere con successo, Giulia, da lì parte, no? Sì, e vediamo anche che le regole sono diverse, vedete che da una regione all'altra, per esempio, c'è chi adotta una certa prassi e chi no. Io dico che comunque il futuro dell'immobiliare si gioca sul futuro dei territori. Noi dobbiamo oggi capire quanti soldi spendere, ma non tanto con una visione di qui e ora, ma con una visione del domani. Questo è molto importante. L'agente immobiliare in questo ha un grande ruolo sociale, non solo perché trattiamo il patrimonio degli italiani, che è la casa. Oggi ancora il 75% degli italiani ha una casa con un valore medio, la Banca d'Italia l'ha misurato, di circa 140.000 euro a persona. Sono tanti soldi. E quindi abbiamo da questo punto di vista un vero impegno. E in questo in futuro, perché se oggi si compra male, domani avrò meno soldi. E vengo anche al discorso della gestione delle decisioni familiari e personali, perché oggi siamo tanto ancora proprietari di immobili, ma in futuro avremo meno italiani. E quindi a chi saranno i compratori del domani? Sì, era la mia battuta che confesso di aver rubato da un precedente intervento a Due di Denari, proprio di Giulia Garbi, cioè il fatto che effettivamente per l'andamento demografico ci sono meno figli che case. Ecco, questo è un po' la considerazione, se volete, brutale, un po' cinica, però è certo quello che succede. C'è Alessandro che aveva una domanda da indirizzare, io credo, proprio a Baccarini. Mm-hmm. Quindi speriamo di aver ripristinato il collegamento. Intanto sentiamo la domanda di Alessandro. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Una domanda per il presidente Baccarini, sono un agente immobiliare. Volevo chiedere al presidente se gli agenti immobiliari associati FIAIP hanno l'obbligo di aderire, di perseguire il protocollo una FIAIP, in difetto verrebbero certo allontanati dall'associazione. Ecco, allora, credo che questo tema dell'obbligo, peraltro ne parlavamo prima anche con Giulia, no, non ci sia per nessun tipo di formazione, sostegno degli esami e quant'altro, però credo che per un professionista moderno e adeguato ai tempi, come diceva prima Mauro, l'opportunità poi di seguire certi percorsi ci sia tutta, Baccarini. Assolutamente sì, non c'è l'obbligo, perché non ci può essere obbligo da parte di una federazione, però c'è l'indicazione di una visione, di una strada, perché io dico sempre, se non si comincia mai non si arriva mai, e quindi penso che l'onore, ma anche l'onere di una federazione sia quella di indicarla la strada, la visione di quello che è un modello professionale di riferimento, che è, io dico, inattaccabile, ma soprattutto utile per la comunità, per il cittadino. La Giulia Garbi diceva una cosa giustissima sul valore sociale: noi siamo l'unico paese rispetto a tutti gli altri paesi del mondo in cui la valenza sociale e valoriale del settore casa è unica, appunto, non ha pari, e questo quando si parla di strutture, portali che nel sistema anglosassone hanno tra virgolette sfondato, da noi si fatica un pochino di più. Sono nate 150 start-up in questo senso, ma solo poco più di 30 sono sul mercato, ho un pale al quarto aumento di capitale. Cioè, diciamo che c'è una difficoltà oggettiva, perché da noi l'aspetto, diciamo, sociale e della figura emozionale che deve aiutare le persone a comprare e vendere casa rimane assolutamente prioritario in primo piano. Giulia Garbi, allora, ammettendo che stiamo andando verso questo mondo di agenzie multiservizio e multidisciplinari, il 4.0 prenderà sempre più piede, diamo qualche dritta a un giovane professionista che vuole affacciarsi in questo mercato, lo fa con la vostra identica passione, con la tua, con quella di Baccarini, e quindi è intenzionato naturalmente ad operare pienamente al servizio dei suoi clienti. Da dove parte? Intanto c'è un dato oggettivo: i nuovi giovani che si affacciano sono molto più preparati, normalmente hanno anche diplomi di laurea e sono sicuramente molto più determinati. Parte sicuramente dal rivolgersi a una delle associazioni, perché il corso, diciamo, che porta poi all'abilitazione è necessario. E poi ricordiamoci che l'Italia, gli agenti immobiliari, le 80.000 imprese tra agenti immobiliari e agenzie vere e proprie, è ancora fatta di microimprese, cioè un addetto o due. E quindi questa è una grandissima opportunità, secondo me, perché il recepimento della Bolkestein ci darà la possibilità di personalizzare veramente, cioè di interpretare ognuno secondo la sua inclinazione e le sue competenze questo mestiere. Ricordiamoci che l'altra delle soft skill individuate da Davos è proprio la creatività. Quindi io dico ai ragazzi: siate creativi, fate voi stessi, fate l'agente immobiliare a modo vostro, perché è ancora un lavoro che ha bisogno di tanta personalità e quindi di persone. Potete anche farvi promotori di sostegno della bellezza del vostro territorio. Vuoi raccontarci quello che state facendo a Cattolica con la tua amica architetta? Dei bar lì, dei salottini fuori dai bar? No, ma questo non è per fare, no, perché è una cosa creativa nello spirito che è un'estensione interessante anche della professione di agente immobiliare, infatti. Per cui anche il rapporto con categorie, ad esempio l'architetto, che magari non verrebbero subito alla mente. Ma io voglio essere ancora più concreta, cioè noi per esprimere valore, noi dobbiamo creare valore e dobbiamo ricrearlo in Italia. Noi abbiamo tanti luoghi che sono peggiorati, è sotto gli occhi di tutti, l'abbandono crea degrado e quindi noi dobbiamo, in primis come agenti immobiliari, perché noi lo sappiamo come si fa a creare valore, creando bellezza, gradevolezza. Non basta solo ristrutturare, oggi spesso ristrutturiamo male, quindi anziché aumentare il valore lo diminuiamo, perché magari cambiamo una cosa che sembra solo vecchia per una cosa che ci sembra nuova e facciamo una roba orribile. Metti a posto l'impianto elettrico. Bravo. Arrivederci e esatto. Grazie. Invece, noi dobbiamo saper creare valore e soprattutto dobbiamo saper ricreare un'abitabilità, perché i posti, se non sono accoglienti, non sanno attrarre, e questo parte dalla strada. Io dico sempre che sono una ragazza che cammina e guardando le strade vediamo tanto abbandono anche in termini di commercio. Allora l'idea è stata molto semplice a Cattolica, quella che fa di fare una strada come un salotto. In fondo il salotto è la stanza più bella di casa, vorremmo tutti incontrare dei salotti in giro per le nostre città. Ma allora andatela a trovare. E noi invece torniamo domani. Sì, domani devi andare in un colloquio di lavoro adesso. No, io devo andare a prepararmi per Telefisco domani. Ah, giornatona. Hai intenzione di presentarti in Ginger Intimacy? Sarai molto intimo con i tuoi amici commercialisti domani. Farò l'Intimacy Coordinator per Telefisco. A domani. Grazie a Baccarini e Giulia Garbi. A domani a tutti.